La nota scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Oggi sappiamo che vivrà fino alla fine dei suoi giorni nel faro di Capo Finisterre, all'estremo nord della Spagna. Da questo luogo l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questioni di cuore e qualche suo raro amico. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La guardiana del faro. Шарманка шарлатанка, куда меня зовёшь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Il faro non è molto diverso da casa mia. Anche lì stavo sempre in mansarda. L'unica differenza è che si vede il mare. E poi in casa mi chiamavano sempre perché qualsiasi lavoro faccia una donna è sempre molto a disposizione, non per fare la vittima, perché a me è sempre piaciuto molto servire quelli che amo. Non credo nel dialogo, è una balla moderna, e credo molto nei gesti. Non so far risparmiare del tempo a un figlio che ha dedicato la vita allo studio, servire un uomo che, come tutti i maschi, sono orfani. È bello che tu gli metta qualcosa in tavola, certo, se non lo pretende. Qui comunque non c'è nessuno, ci stanno i gabbiani, che molto simpatici non sono. Si mettono sulla finestra, ti guardano, come dire, ma tu che ci fai qui? Però anche quando ero nel mondo, col fatto che apparivo in TV, qualche volta mi fermavano per la strada. Ah, che gioia incontrarla, finalmente, l'ho riconosciuta. Lei è Marta Marzotto. Mi fa un autografo. A me mi seccava. Devo dire, mi seccava. Intanto tocchi con mano la tua inesistenza. La tua, questa grande marmellata dei media dove ognuno equivale a un altro. E poi e poi mi seccava pure perché lei era un po' più vecchia e questi vecchi ci stanno attentissimi. E chi ha 2 anni di meno ti sembra decrepito e ti offendi moltissimo del paragone. Oppure più spesso ancora mi prendevano per Lucia Alberti, la maga, che era morta da 15 anni. Allora, il suo fantasma era più forte e più importante della mia presenza fisica e mi chiedevano l'oroscopo. Io facevo tutto, autografi, firmavo sempre Marta Marzotto, oroscopi, perché trovavo comunque meno umiliante che spiegare chi ero davvero e chi soprattutto non ero. Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. E poi c'è questa nebbia, no, al faro, che anche questa è molto familiare. Mi sembra di stare al mio paese, nell'alta valle del Tevere, dove c'era la nebbia 8 mesi all'anno e tutti erano piegati in 2 di reumatismi. Io avevo molta paura, come tutti i bambini, avevo molta paura della nebbia, perché la nonna era fittissima e la nonna ci aveva detto che quando era così impenetrabile, ogni tanto scappava fuori la mano del diavolo, ne acchiappava uno e se lo trascinava giù all'inferno. Perché allora, quando eravamo piccoli in questo paese dominato dallo svolazzio delle gonne dei preti, il diavolo era dappertutto e tutto era peccato. E c'erano anche le canzoncine. Appena tu dicevi, non so, che stai facendo, tu rispondevi, come mi pare. Allora, che era già un piccolo segno di indipendenza, allora pronta scattava la canzoncina. Ah, come te pare? Il diavolo è il tuo compare, te stragina giù per le scale, te stragina giù per un fosso, te sarvede manco un osso. Satana prendeva tutte le forme. Satana era il mondo. Satana poteva essere anche il gatto rosso che metteva incinte le gatte di casa e urlava di lussuria sui tetti. Satana era dappertutto. Il mercante di nastri era il suo schiavo. Satana è dentro lo specchio, soprattutto dentro lo specchio, bastava che ti guardavi e allora immediatamente fare il segno della croce e lasciare la propria immagine perché era peccato guardarsi e magari trovarsi carini. Una volta non sono stata svelta a levarmi ed ecco che vedo questo corno sottile, ondeggiante che usciva dalla specchiera. Satana era lo zoppo che chiedeva la carità per andare a bere e magari era bolscevico in cuor suo e i bolscevichi erano tutti condannati all'inferno. C'erano 2 soli rimedi contro di lui, la luce elettrica e il segno della croce. Però se il diavolo ti acchiappava di notte ovvero ti veniva in sogno, beh, allora non c'era niente da fare. Tanto era attento di giorno quanto era sfacciato in sogno. Si mostrava e lo vedevo solo io. Allora facevo segni disperati alla nonna, ma lei non capiva e mi teneva ferma. Ma come farmi un po' meglio tormentare da lui? E una notte mi sono accorta da come brillavano i suoi occhi rossi, da come queste unghie si facevano aguzze in sogno. Io all'improvviso avevo capito. La nonna e il diavolo erano la stessa persona. Sto insieme a un uomo da 5 anni che ha 22 anni meno di me. Io pensavo che stesse insieme a me per interesse, ma siccome sono piena di debiti, allora sicuramente non sta insieme a me per interesse. Pensavo che stesse insieme per le cose sessuali, però ti assicuro che non sono assolutamente brava da quel lato lì. E allora certe volte mi chiedo, ma l'amore è proprio una cosa così talmente effimera che uno non sa neanche perché sta insieme all'altro? Perché certe volte mi chiedo cosa gli do e mi do delle risposte, ma non sono mai plausibili, mai. Devo dire, in risposta a questo messaggio, che intanto mi meraviglia che tu non sia brava, come dici tu, nel sesso, perché di solito il più grande detonatore erotico è l'amore, almeno per quello che io so. E ci sono persone che sono freddine come Jackie e poi magari in amore diventano delle messaline. E poi quanto al fatto che dell'amore non si sa, ovvero non si sa perché si ama, sono gli amori migliori, perché quando devi giustificare un amore già vuol dire che non funziona molto bene. Sai, io mi occupo di posta del cuore da 27 anni e gli specialisti non esistono, gli specialisti sono dei truffatori come Vanna Marchi, dell'amore nessuno ne sa niente e ti posso garantire che più me ne occupo e meno ne capisco. Qui Capitaneria di Porto, è in linea una certa Francesca che chiede di Barbara Alberti. Pronto? Pronto Barbara, sono Francesca. Ah, buongiorno Francesca, perché mi chiama? Guardi, la chiamo perché io lei la stimo molto, l'ho sempre seguita e siccome la mia e lei è anche una donna molto aperta di mente, ecco, io voglio dire questo, io ho 52 anni, molto ben portati, mi creda. Le credo? Ecco, no, faccio concorrenza alle trentenni, ho un marito da circa 25 anni, abbiamo due figlie grandi, eccetera, eccetera. Io a un certo punto di questo marito non ne potevo più. Allora io mi sono innamorata di un altro e l'ho lasciato. A quel punto poi io mi sono pentita e lui mi rivoleva perché mi amava, la follia, e siamo ritornati insieme. Adesso io gliela faccio un po' in breve perché chiaramente questa separazione è stata una cosa molto dolorosa. No, ma la faccia pure lunga, Francesca. È stata una cosa molto dolorosa anche perché c'erano di mezzo queste due figlie e poi lui era molto legato a me, almeno io così credevo, questo era... Sì, che dico, questo senza di me muore, non sa che, dico io effettivamente è meglio un uomo che stare senza, perché qui, Barbara mia, ma lei va a volte a cena fuori, oppure così, c'è un uomo per 10 donne, chi è vedova, che il marito è scappato con un'altra, io a me di fare la donna da sola così alla cena o andare a teatro senza un uomo, a me non mi va. Lei sa che noi andiamo alla sera a prendere 3-4 donne perché sennò poi a casa a portarle e riaccompagnarle, ma è un incubo. Guarda, meglio la poligamia. Allora io a questo punto sono tornata. Cioè meglio la poligamia dell'essere lasciate? Ah, guardi, questa è una grande crudeltà di questa società, perché finché sei giovane, figli, fai figli e tutto. Quando sei solo dei 50-55 con questo Viagra che ha scombussolato tutti, perché Barbara mia, una volta a 60 anni gli uomini non andavano via di casa manco con le cannonate, adesso a 60 anni scappano tutti con queste russe. Guardi Barbara mia, mi ascolti, le chiedo questo, mio marito adesso cosa fa? Tutto un idillio e mi sono accorta che mi mette un sacco di corna. Ma aspetti, ma non con queste, chiaramente, ste carampane amiche nostre sempre sulle. Quelle che accompagnate a casa. Quelle che accompagniamo a casa, dice, se una volta, no. Lui va con le mignotte che le paga, queste strabellissime, assaggia quello, assaggia quell'altro, prova quello, assaggiato pure Lo strufolone. Mi dica, prego. No, ha assaggiato pure il trans, Barbara. Ah, il anche trans. Lei, ma non capisce. Scusi. Ma si rende conto? Adesso io mi trovo nel letto vicino a uno che non solo mi mette le corna e passi, tanto gliel'ho messa anch'io, insomma, vabbè. Ma non solo io invecchio, anche se meravigliosamente bene, però a me questo che vada anche coi trans, a me non mi va nessuno di giubbio. Ma scusi, cos'è che non ce la fa? Il fatto che lui non l'ami più, il fatto che vada con le bellissime russe o il fatto che va coi trans, o tutti insieme? È un insieme di cose, perché vede, in realtà io sono tornata con mio marito perché appunto per la paura della solitudine... Cosa posso fare per lei? Allora, io voglio dire questo, secondo lei... Se io lo lascio, perché a me mi fa, proprio devo dire la verità, a me mi fa senso averlo vicino nel letto. Sì, ma guardi che non sono mica contagiosi i trans, non sono dei malati. I trans sono ma è lui che è malato mentale, mi scusi. Ah, e quindi le fa proprio schifo, quindi perché sì, si è rivolto a me? Che consiglio vuole? Come farlo fuori? Secondo lei, che ha molta esperienza, anche dell'animo umano profondo, questa è meglio che lo lascio oppure no? Senta, Francesca, io però penso una cosa, che invece ci deve rimanere, perché no, vi sì. meritate, vi meritate perfettamente, perché scusi, una che è passata sopra tutte queste cose, cioè, lei dice che io ho una profonda conoscenza dell'animo umano, francamente Francesca, non è vero, io più mi occupo di cose d'amore e meno ne capisco, perché gli usi degli umani per me sono veramente sempre più misteriosi. Ma signor Alberti, mi scusi, ma guardi, adesso con questa cosa dei trans, veramente si è andati oltre. Io non riesco a capire perché il tradimento col trans valga, così in questa banca matrimoniale, valga molto di più del tradimento. Il tradimento comunque lui va con delle persone prezzolate perché con lei si annoia. Secondo me il matrimonio è un'avventura pericolosa, come tutte le avventure d'amore. Bisogna essere pazzi per sposarsi, ma veramente pazzi d'amore. Bisogna avere una ragione forte, una ragione interiore, esteriore, qualsiasi cosa. Lei ha accettato questo matrimonio, che non è schifoso perché lui va ecotrans, è schifoso dall'inizio, perché no, vi siete sempre mentiti. No, io non l'accetto, no, mi scusi, lei mi sta insultando. No, sì, la sto insultando perché le voglio dire che ci sta benissimo con lui. Ma secondo me è vero e proprio, perché dei matrimoni cosa ci si aspetta? Che ci siamo tutte montate la testa con romanticismo. E questa è realtà, perché i contadini quando si sposavano, e si sposavano per ragioni concrete. Sì, ma anche le donne che si sposavano 50 anni fa non avevano altra alternativa. Adesso, se ti prendi, se fai questa, tenti questa avventura del matrimonio, devi essere proprio convinto. Vabbè, non mi ha aiutato per niente lei. È vero, è vero. No, è vero, ma è vero anche perché noi siamo su due piani diversi. Lei su un piano altissimo, che è quello della commedia dell'arte, e io posso opporle soltanto i poveri termini della ragione. Cioè, cosa vale che io le dica che il suo starci insieme per essere accompagnata a teatro è un tradimento pari e forse maggiore di andare con queste creature mitologiche che sono i trans, che hanno in sé ogni seduzione? Perché lei è una creatura artistica perfetta, e i miei argomenti crollano davanti a lei. Lei è una maschera italiana antica e nuovissima, e incarna anche il mistero delle donne di oggi, che appunto finalmente oggi il matrimonio non è l'unica soluzione, eppure sono accanite nel pretendere il marito come un simulacro. Suo marito, Francesca, è come il fantoccio che le donne americane sole si tengono in macchina accanto al posto di guida per fingere una presenza maschile e una protezione. Lei è la voce inascoltabile della realtà. La prego, mi chiami ancora, anche se non me lo merito. Qui Capitaneria di Porto, è in linea una certa Giulia che chiede di Barbara Alberti. Sì, pronto? Sono Giulia, mi piacerebbe raccontarvi una storia. Sono tutto orecchie. Io ho conosciuto qualche anno fa un uomo molto affascinante, il classico bel tenebroso, di provenienza sociale molto elevata. Si muoveva anche come una rockstar. E cioè questo, come si muoveva? Diciamo che poteva sembrare Ron Wood dei Rolling Stones anche al giorno d'oggi, quindi un uomo vissuto da tutte le esperienze con le donne, con l'alcol, eccetera, eccetera, eccetera, però comunque di un livello culturale molto elevato, perché molto teatrale anche, vuol dire. Assolutamente. La cosa della quale mi ero perdutamente innamorata era questo essere un uomo fondamentalmente evoluto e colto, che per una scelta voluta era tornato ad essere un uomo primordiale. Se lui finalmente un maledetto, sì. В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльма свечки. Aveva un po' di vizio, anzi, evidentemente era diventata un'ossessione di voler portare tutte le donne all'inferno, perché siccome lui si credeva un angelo caduto dal cielo che doveva vendicare la sua caduta dal cielo con... In che modo le portava all'inferno? Con il modo che molti uomini al giorno d'oggi non conoscono più, cioè con delle dosi di sesso fatto talmente bene, talmente massiccio, che comunque arrivava a far soddisfare tutti i suoi desideri, farsi recuperare in qualunque stazione d'Italia si trovasse, non solo facendosi pagare qualsiasi cosa. Ecco, quindi, questa è una scena interessante, cioè lui ti chiama da Caltanissetta e dice: sono qui, sono ubriaco da 3 giorni, non ho un soldo, vienimi a prendere, tipo così. Esatto, ovviamente piangendo, piagnucolando, io non so, ho bisogno d'aiuto, ho bisogno di parlare, vieni, parliamone anche alle 4 del mattino. E lei correva. Non ce la posso, certo, io correvo, infatti... poi scoprendo che tutte correvano, e questa è la magia, no? Capisci? Non è che sono... Però una per volta? Beh, insomma. Non le è successo mai di andare lì e trovare due che erano state più veloci di lei? No. Ecco. No. Però al momento ti faceva sentire unica. Assolutamente. Quanto è durata? È durata un paio d'anni, finché poi con un comportamento concludente mi ha fatto capire che veramente non era più il caso di andare avanti, o meglio, se fosse stato per lui, tanto lui non aveva mai nulla da perdere, perché non mettendo mai nulla in gioco di se stesso, se fosse stato per lui ovviamente la storia sarebbe proseguita. Però io a un certo punto avevo capito che lui non aveva in realtà nessun legame affettivo con alcuna delle donne che aveva avuto almeno nei 5 anni precedenti, me compresa. Quindi con molta fatica io ho cancellato il suo numero di telefono e ovviamente mi sono ricostruita una vita in un altro modo. Пускай несет нас черный парус. Пусть будет сладок ром ямайский. È contenta almeno una volta nella vita di avere deragliato con uno che deragliava, sia pure in maniera teatrale? Assolutamente sì. Allora, però, io sono sempre dell'idea che sia necessario inseguire e coltivare le emozioni, ma quando queste ti portano all'autodistruzione è veramente il caso di finirla, perché in realtà la vita nostra, la vita può essere una cosa meravigliosa, e trovo veramente stupido gettare la propria vita. Beh, però intanto l'ha gettata per un po'. D'altronde l'amore è questa grande occasione per non calcolare più. Per fortuna, voglio dire, come appunto è come il buco dove cade Alice nel paese delle meraviglie. Finalmente tutto si trasfigura. Finalmente non te ne importa più nulla della morte. Si diventa anche dei delinquenti. Pensi che io vorrei proporre una... Adesso purtroppo non ne sono più i tempi, perché ormai se sei incinta ti licenziano, ma in passato mi sarebbe piaciuto proporre un congedo dal lavoro per amore, per innamoramento, come per gravidanza, perché è uno conquasso, si diventa sociali. Si diventa dei delinquenti, è un'associazione a delinquere a due. Appunto, se non si ha scrupoli, allora, il resto del mondo non conta più nulla. E quindi è un periodo in cui nel lavoro si può dare poco e poi si tornerà dopo un po'. Credo che la frase chiave di questa relazione sia questa: è l'uomo che risveglia l'ancestrale. Ma guardi, signora, come me lo descrive lei, io onestamente lo trovo semplicemente, cioè lei ne fa una descrizione appunto filtrata dal tempo, ridicola. Però evidentemente è lei, io sono convinta che è lei che ci ha messo, che il romanticismo ce l'ha messo tutto lei. E le dico, bel tenebroso. Capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre per dare la linea alla pubblicità. Riattiveremo il collegamento tra qualche minuto. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. Tra Tra gli scrittori italiani io trovo estremamente interessante Michela Murgia, e non soltanto per ciò che scrive, ma anche perché ha una vita molto poco da scrittore italiano, che di solito è piuttosto uniforme. Michela ha fatto qualsiasi lavoro, dal call center, non so, alla studiosa di teologia, addirittura insegnante di religione alle scuole medie superiori, e operatore fiscale, venditrice immobiliare, addirittura direttore amministrativo di una centrale termoelettrica, e poi quello che più mi affascina, portiere di notte, dove l'hanno assunta volevano un uomo, e poi appunto come dice lei, li ho convinti che potevo in certi momenti fare da uomo meglio di un uomo, e la condizione era che lei tenesse questo bastone di pero sotto il banco. Ma lo hai mai adoperato questo bastone di pero, Michela? Non sulle persone, non si è mai reso necessario. Lo utilizzavo per fermare la porta, sai, quelle porte a scorrimento che si aprono con la fotocellula. Mettevo il bastone e impedivo il movimento della porta dopo una certa ora, però all'occorrenza l'avrei usato anche come mazza se fosse servito. A Michela Murgia, che appunto dopo tutti questi lavori poi è diventata scrittrice, come racconta lei, in maniera molto avventurosa, e ha vinto l'ultimo Campiello, come tutti sanno, perché se n'è fatta un gran chiasso per ragioni che adesso non staremo neanche a dire, oltre alla bellezza del libro Cabadora. Ecco, io ti volevo fare due domande, Michela. Volevo chiederti, potresti dirmi un pensiero tenero su di te e uno severo? Non è facile. Il pensiero tenero, se dovessi rifletterci, riguarderebbe la mia passione per gli esseri viventi piccoli. Ho necessità di essere continuamente circondata di cose vive, piante, animali, insetti, creature a vario titolo. Ho un geco in casa che non mando mai via. In genere ho orrore dei luoghi dove l'uomo non consente altra vita oltre alla propria. Le case sterilizzate, gli ambienti iperprotetti mi spaventano un po'. Ci intravedo una forma di selezione di stampo nazista, come se tutte le altre forme di esistenza fossero funzionali alla nostra oppure inutili. Un pensiero severo, questo è più difficile, mi induce a una confessione spudorata, porto rancore, e anche se riconosco che è un enorme spreco di energia, non riesco sempre a impedirmelo. Sono convinta che del cuore non si butti via niente, anche quello che con il tempo tende a marcire, quindi mi ricordo di uno sgarbo a distanza di anni e so coltivare una rabbia anche per decenni. E ti vendichi? Se posso, sì. E come ti vendichi? Ma ci sono tanti modi di vendicarsi, non necessariamente agisco, anzi più delle volte non agisco. Sei veramente una strega, e sai in che senso lo intendo? Me ne vergogno molto di questa cosa. No, strega nel senso di incivilizzabile, di magicamente potente. E che rapporto hai col corpo, e col sesso, e con l'amore? Ma è un rapporto molto sereno, non subisco i modelli dominanti, e anzi mi sbalordisco di vedere quanta fragilità c'è nelle persone che si lasciano imporre una monovisione del corpo, per cui alla fine siamo tutti deformi rispetto a questa visione. Ecco, se è un rapporto magari meno... Non, mi interessa poco, non so, in questa società e cultura ipersessualizzata fa brutto dirlo, però la verità è che è una delle cose meno interessanti della vita in generale. Ti sei anche sposata però? Sì, mi sono sposata, certo, ma il matrimonio e il sesso sono due cose che viaggiano spesso su binari differenti. Però tuo marito è anche un amico? Soprattutto un amico, sì. Non avrei mai potuto sposare una persona nella quale non ho cieca fiducia. Senti, che cosa ha cambiato nella tua vita aver vinto il Campiello con Cabadora? Mi molestano molti più giornalisti di prima, e spesso chiedono, diciamo, che io dia dichiarazioni su cose in cui non ho la minima competenza. Resistere è la cosa più difficile, cioè non farsi convincere, cioè non avere niente da dire e non farsi convincere a dirlo. Ti ringrazio moltissimo, Michela. Grazie a te, come sempre divertente. A presto. Ciao. Са два ра подъезд известный под названием Чёрный ход. В том подъезде, как в поместье, проживает чёрный кот. Quello che mi ha sempre stupito sono le lagne degli innamorati, i quali non trovano mai adeguato a sé l'amore che provano. Per esempio, un motivo tipico di lagnanza: lui è troppo vecchio, lui è troppo giovane, lei è troppo vecchia, lei è troppo giovane. E il fatto è che l'amore non è una siepe ben tagliata, se no ci saremmo già estinti per noia milioni di anni fa. L'amore non è un gentiluomo, l'amore è un brigante, t'acchiappa quando gli pare, ti assale nelle forme più sconcertanti. L'amorosamente corretto non esiste. Una volta colpiti, una volta riconosciuto il Dio, non resta che servirlo. Io credo che beati quegli amori che hanno qualche ragione per essere clandestini. Mi piacciono i vecchi, mi piacciono solo i vecchi, grida Nerida, di 16 anni, nel libro di Bioy Casares, Diario della guerra al maiale. Lei è innamorata di questo anziano Don Isidro ed è il suo un grande atto di rivolta, molto nobile e che può anche costarle caro, perché in questo libro, a Buenos Aires, infuria la guerra al maiale, ovvero i vecchi, e guai a chi li difende. I giovani hanno deciso di sterminarli tutti, perché sono inutili. Naturalmente è un ovvio esorcismo verso la propria vecchiaia. Devo dire, anche a me da giovane piacevano i vecchi, ma tantissimo. Non saprei, c'era quel specie di quel patto delinquente, quel patto indicibile. E non è che mi piacessero i vecchi importanti, i vecchi con un ruolo. Per me, peggio ridotti, meglio era. Cioè, perché vecchi non bastava. Mi piacevano pure disgraziati. Cioè, c'era un concentrato di ambizioni romantiche, una più retorica dell'altra. Oh, purtroppo però io non piacevo a loro, perché non si fidavano. Le donne hanno sempre fatto pazzie per gli uomini, diciamo, maturi. Ma cosa ci trovano? Io lo so, per me di allora, perché rendono più preziosa la tua gioventù. Non ti sei mai sentita così giovane come quando ami un vecchio. E poi sei artefice del miracolo, c'è cioè questa rinascita del desiderio. E poi hanno dalla loro questa grandissima forza che moriranno prima. Anche se poi la vita scombina ogni carta, ma sulla carta muoiono prima. C'era una ragazza innamorata di un vecchio bacucco che mi diceva: ogni volta che sto con lui, la morte, cioè lei, le chiamava lei perché tanto era presente tra loro, la morte fa un passo indietro e io glielo contendo. Mi piace anche tutto quel tempo che ha vissuto. Mi diceva: io avevo paura di avventurarmi nella vita e mi sembrava che attraverso di lui la vita mi accogliesse. E poi diceva: mi piaceva anche l'idea della protezione, anche da dare. Questo devo dire che spessissimo è una grande illusione. Una ragazza che si mette con un vecchio si illude di trovare l'indulgenza infinita del padre, del maestro. Invece stai fresca, spessissimo sono loro che hanno bisogno di sicurezza e la vogliono da te. Sono avidi di nutrici questi uomini d'età. Io a 19 anni mi sono innamorata di uno di 65. Però non bisogna pensare ai vecchi di oggi, cioè adesso 65 sono ragazzini, portano i jeans, hanno i bambini piccoli. No, ai miei tempi era proprio un vecchio rifinito. Uno, tra l'altro, che aveva mancato tutto. E questo suo fatto di non essere riuscito in nulla, di non aver fatto carriera, mi sembrava un segno certo di grandezza. E di solito si pensa sempre che sia il più vecchio a rimetterci, ma quasi mai. I vecchi sono cattivissimi, i vecchi sono infrangibili. L'egoismo adulto è inarrivabile. Ne restai frantumata. Era come l'angelo azzurro al contrario. Nel film di von Sternberg, L'angelo azzurro, un vecchissimo film con un classico del cinema, con Marlene Dietrich, l'anziano professor Unrat incontra la giovane ballerina fantasista, giovane Lola e si unisce a questa compagnia di teatranti e finirà nel palcoscenico a fare il verso del gallo. Ebbene, con questo vecchio egoista fui io che mi misi a cantare Chicchirichì. Però, dell'amore mancato con un vecchio, mi sono offerta un risarcimento letterario in un libro che si chiama Vangelo secondo Maria, della storia della Madonna giovinetta. In quel libro lei incontra Giuseppe che fa da maestro a Maria, la istruisce, la ama in silenzio e rispetta questo patto di castità. Maria, parlando di Giuseppe, dice: io credo che prima di affrontare il mondo, ogni fanciulla dovrebbe vivere per qualche tempo con un vecchio gigante, che la porti fra le braccia e rispetti il suo sonno e le insegni le virtù delle piante, la lingua greca e il principio della meridiana. Ora, questo Giuseppe esisteva davvero e fu per me l'iniziatore che Maria racconta. Apparteneva a questa specie rarissima che se ne trovate uno cercate di non lasciarvelo scappare, il maschio madre, quello che ti accoglie, che non vuole sempre come tutti i maschi che si misurano, uno che non si misura, non vuole abbassarti la cresta, vuole fartela spuntare, radiosa. E mi rivelò la qualità che più ci seduce nel maschio, il pudore. Soltanto che questo vegliardo era mio coetaneo. Avevamo 20 anni tutti e due. capitaneria di porto. Una certa Giulietta chiede di Barbara Alberti. Pronto? Pronto? Signora Alberti, sono Giulietta. Ah, buongiorno. Buongiorno, io volevo attaccarmi al suo discorso su questo suo amore per i vecchi, per raccontarle del mio amore per i vecchi, perché io sono una gerontofila quasi maniacale. Ah, racconta. Allora, io ho perso il padre quando ero ragazzina, ed allora chiunque avesse 30 anni più di me era mio. Proprio le mie amiche mi dicevano che più ero in avanzato stato di decomposizione, più mi piacevano. E io mi sono sempre molto illusa che loro potessero rappresentare una protezione, un sostegno, la proiezione delle cose che io desideravo. Insomma, tutto questo è stato una grandissima bugia che mi sono raccontata, perché in realtà mi sono trovata a fare la mamma a questi vecchioni. Allora, loro, per carità, apparentemente fanno finta di proteggerti, apparentemente ti danno l'idea di essere lì tutti per te, in realtà sei tu tutta per loro. Ce ne ho diversi, perché poi sono molto recidiva, cosa vuole, alla fine poi uno deve anche rispondere dei propri difetti. E addirittura uno di questi è riuscito anche a rubarmi i soldi che gli aveva detto di volermi amministrare lui, perché lui aveva comunque molta esperienza, quindi ci penso io. E infatti ci ho pensato, e quindi mi sono ritrovata con il conto svuotato e, come si dice, in braghe di tela. E questo è un po' il leitmotiv di tutte le mie relazioni, che, come le ho detto, sono tante. Le ho provate di tutti i generi e di tutti i tipi di mestieri, non c'è una discriminazione né sociale né economica. Sì, ma lei raccattava tutti, Giulietta? Io li raccattavo tutti. Poi quando erano un po' piagnoni, un po' disperati, allora io me li prendevo, perché sembrava quasi di fare ammenda di qualche mia colpa. Ma lei è anche un po' gattara? Sì, perché lei dice che gli devo da mangiare la mia gioventù. E poi? E poi, dopo tutta questa atrofia, a un certo punto ho cominciato a pensare che forse c'era qualche cosa di sbagliato, e allora mi sono messa a studiare. Adesso sto cercando di guarire dalla gerontofilia. Però devo dire che nel guarire dalla gerontofilia poi sono riuscita a trovare invece anche una persona che non era così. E le dico, io ho vissuto molto negli Stati Uniti e li chiamano i sugar daddy, cioè i papà di zucchero, che hanno una funzione straordinaria, che è quella praticamente di viziarti. È come il nonno che vizia il nipote. E questi personaggi sono rarissimi da trovare, perché comunque si mascherano di solito dietro a quelli di cui prima. Però esistono, quindi se c'è qualche gerontofilo in ascolto, gli voglio dire che non è il tutto perduto, ecco. Non è tutto perduto, grazie della testimonianza, Giulietta, molte grazie. Arrivederci. Ma via. Io ho l'impressione che questi gabbiani qui non mi ci vogliano, perché vengono dentro, c'è uno specialmente sfacciatissimo che viene dentro e brutta i fogli. Ma proprio qua, no, adesso devo pulire, proprio in questa poesia bellissima di Bless Andrà. Se ami, questo è il momento di partire. Lascia tua moglie, lascia il tuo bambino, lascia il tuo amico, lascia la tua amica, lascia la tua amante, lascia il tuo amante. Quando si ama, si deve andare via. Il mondo è pieno di negri e di negre, donne, uomini, uomini, donne. Guarda i bei negozi, guarda quest'uomo, questa donna, questa carrozza e tutte le belle merci in vetrina. Impara a vendere, a comprare, a rivendere. Da, prendi. Quando si ama, si deve sapere cantare, correre, mangiare, bere, fischiare e imparare a lavorare. Quando si ama, si deve partire. Non sorridere tra le lacrime. Non farti il nido fra due seni. Respira, cammina, parti, vattene. Il mondo intero è sempre qui. La vita, con le sue cose sorprendenti. Esco dalla farmacia, scendo appena dalla bilancia, peso i miei soliti 80 kg. Ti amo. Qui in Capitaneria di Porto. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto? Ecco, no, adesso vorrei spiegare. Questa che sto chiamando è una mia amica. Qui, quassù, dall'alto del faro, anche se dovessi rompere i rapporti con tutto il mondo, non li romperei mai con la Maria. Chi è la Maria? Ah, io posso dire solo una cosa fisica. La Maria assomiglia a un husky. Avete presente quegli occhi, no? Che hanno gli aschi, che sono capaci di tutto. E hanno questa geometria per cui è come se prendessero una prospettiva maggiore degli altri, così aguzzi e così stravaganti e così barbarici, così incivilizzabili. L'aschi, nella sua estrema finezza, è incivilizzabile. Questa era Maria. Pronto, Maria? Sì, sono qua. Che stai facendo? Sono... Si può dire? Qua che penso al mio amore. Al mio nuovo amore. Chi è il tuo nuovo amore? Il nuovo amore è un siciliano meraviglioso che finalmente ho incontrato in Tunisia. Devi sapere, Barbara, che lui ha una fabbrica di acciughe. E io ho sempre amato le acciughe pazzamente. Ho girato con degli zaini d'acciughe in giro per l'Italia. E finalmente, poi un tipo particolare di acciughe proprio, che sono queste spagnole meravigliose. E io ho avuto la fortuna di incontrarlo quest'estate, di incontrare lui che le produce, le fa pescare. Una sera me ne ha portato un vaso, timidamente ha aperto il barattolo d'acciughe e un pezzettino di pane me ne ha dato un quarto e mi ha imboccato questo quarto d'acciuga. E allora io l'ho mangiato e ho detto: guarda, scusa, faccio io. E senza pane, senza niente, insomma, ne ho mangiato mezzo vaso. Lui era sconvolto e compiaciuto. Mezzo vaso d'acciughe, mezza bottiglia di rum, che è un abbinamento orrendo, però comunque avevo bisogno anche di coraggio per mangiarmi tutte quelle acciughe. E così... Scusa, ma l'hai fatto per fargli colpo o proprio ti andavano? No, mi piacevano molto, però dovevo buttare giù anche un po' di rum perché sono acciughe... E quindi è iniziata questa storia di pesce azzurro, fresco pesce azzurro, sanissimo, siciliano, dopo la storia vecchia che tu sai, no? Di quello che si faceva pagare qualsiasi cosa. Ah sì, perché oggi, Mary, i maschi che sono caduti dal banchetto vogliono il risarcimento. Cosa vogliono oggi i maschi dalle donne? Vogliono i soldi. All'altro, per esempio, andavamo a fare la spesa al supermercato e chiaramente pagavo io. Il conto, per esempio, era 120 euro. Davo 150 euro e lui prendeva il resto e se lo metteva in tasca. E poi come continua la storia con l'acciughista? Mi agita solo il pensiero, perché lui ha 11 anni in meno di me. Lui i suoi 37 anni li porta male, io i miei 48 bene. E poi le acciughe secondo me fanno benissimo. Tu ecco come ti potrei chiamare, consigliera di vizi, consigliera di piaceri. Perché tu conosci e mi hai rivelato dei piaceri che non avrei mai immaginato. Adesso vado fuori vestita d'argento come una Alice. Saluto la Maria, questa nostra amica di Modena che inseguiremo nella sua vita improbabile per tutta Italia. Ciao. Ciao, ciao. Prima che qui mi stacchino l'energia elettrica, io vorrei leggere una dichiarazione d'amore per chiudere e così, come saluto. È prestato un libro ed è la storia. Chi parla è un commissario di polizia, il quale si è occupato del caso di questo bambino rapito e per tutto il libro ha sospettato la madre di avere fatto un autorapimento. Poi si rende conto che non è così e alla fine della storia si ritrova follemente innamorato di questa donna, dalla vita totalmente squinternata, ma piena di stranezza e di vita. E le dice, senza che lei sia davanti, si fa questa prova, diciamo, di dichiarazione d'amore. Io ti sposo, Mara. Non puoi scapparmi. Ci piace troppo il cinema, a tutti e due. Finalmente a ruota libera. A te non dirò bugie. Sì, una creatura romanzesca insostenibile come te. Perché quando ti abbatti sul petto di un uomo, è per sempre. Ti piace il pelo? C'è. E l'odore di maschio? Pure quello. E la protezione? E la risata? Tutto, tutto. Non mi scappi, no. Se ce la fai, Mara, Tabasco è qui e aspetta. Di te gli piacerebbe dire la mia donna. Di te ho capito calvario e peccati e che non sei civilizzabile. Un po' la domerei, un po' la lascerei sfrenare. La bottiglia ogni tanto, per la letteratura. Sesso furioso, al colmo della tenerezza. Lealtà assoluta e tanto cinema. Qui